puntuale anche questo mercoledì, vigilia della giornata di liberazione dal nazifascismo dal 1945 al 2024, e alle 8:04 abbiamo la nostra diretta letteraria con il Voltiamo Pagina. Io intanto, prima di dare il buongiorno, co-conduzione, la presenza del notaio, volevo rassicurare Lorenzo, il nostro collaboratore, redattore della redazione culturale, che se vedrà uscire Stefano non l'abbiamo cacciato fuori, lui era preoccupato, no? E non è per motivi disciplinari, ma unicamente perché la stagione purtroppo ha portato un po' di bronchite e qualche colpo di tosse. Lui, con un eccesso di zelo, ha affermato: non vorrei disturbare. Il Voltiamo Pagina non censura e non allontana nessuno. Buongiorno Silvia. Buongiorno Willy, buongiorno a tutte e a tutti. E quindi iniziamo invitando ascoltatrici e ascoltatori con il 333-180-9494, oltre che per comunicazione e co-conduzione, recensioni letterarie, e attenzione perché anche oggi ci sarà la possibilità di portare a casa i due volumi che andremo a presentare. Non è esatto quello che ho detto, per quanto riguarda Silvia, sì, la possibilità di vittoria indubbiamente c'è, ma è per una pubblicazione a sorpresa, in quanto il libro in presentazione, che non conosco, arriva ma deve essere nelle mani di Silvia. Non so se regalo, motivi personali, adesso svelerà anche questo arcano letterario per dare via al Voltiamo Pagina. Come mai che questo libro non può momentaneamente essere a disposizione, Silvia? Ah, questo non può proprio perché non è mio. Perché vedi, ok. Io lo attendevo con ansia dall'editore per recensione e non mi è arrivato. E così, finalmente, visto che dovevo no, non è arrivato. Ah, proprio non c'è neanche qua? No, ce l'ho. Ah, ce l'ha. Però me l'ha prestato gentilmente la Nicoletta di Trame, in modo che io potessi scrivere la recensione. Quindi momentaneamente, però è disponibile nelle librerie. Sì, nelle librerie è disponibile, a casa mia che non è disponibile. No, intanto allora ringraziamo la collaborazione di Libreria Ubic di Via Irnerio 27, collaborazione importante in quanto anche voi potete, oltre che consultare, guardare un'esposizione letteraria quanto mai completa dalla Ubic, portarvi a casa il premio, ovviamente con risposta esatta ai quiz che arriveranno a breve sul Voltiamo Pagina. Iniziamo, la playlist musicale è già pronta, iniziamo la playlist letteraria. Okay, con allora, quale titolo? Prima di tutto lasciami ringraziare la Nicoletta, perché certo, mi ha permesso di fare la recensione che fra l'altro volevano anche in fretta, perché questa oggi è uno di quei giorni in cui battiamo i magazine. Ah, ok. Il titolo è il titolo più importante, direi, fra le ultime uscite della settimana scorsa e non solo, è Coltello di Salman Rushdie. Knife. Okay. Coltello, meditazioni dopo un tentato assassinio di Salman Rushdie, dove Salman Rushdie racconta le vicende relative all'attentato che ha subito 2 anni fa. Quando è stato aggredito da un fanatico che con 17 coltellate, 15. Ma ha riportato ferite gravi, sì, tra l'altro. Lui infatti racconta tutto il calvario successivo all'attentato. È stato pugnalato, accoltellato al torace con molte ferite al torace che hanno portato, per esempio, a dover recidere una parte dell'intestino tenue, si è spappolato il fegato e varie ed eventuali nel torace, più 2 colpi al collo e la mano sinistra, sì, perché lui, per schermarsi la faccia, per proteggersi, ha usato la sinistra, e l'occhio destro, perché ha avuto anche una coltellata all'occhio. È stato in ospedale, diciamo, tra la vita e la morte, 3 giorni in cui non si sapeva se sarebbe sopravvissuto. Dopodiché è cominciato appunto il calvario di tutti gli interventi e vari ed eventuali per salvare il salvabile. E adesso è già in giro, quindi sì, insomma, ce l'ha fatta, però ha perso un occhio. Sì, ferite gravissime. L'occhio destro l'ha perso completamente e la mano sinistra la usa poco. Praticamente. Quindi un attentato molto forte, poi debilitante per quello che ne resta delle ferite riportate da un grandissimo scrittore, tra l'altro. Sì, lui qui racconta appunto sia proprio anche con molti particolari che cosa gli è successo in questo periodo ospedaliero, diciamo che è durato, mi sembra, quasi 2 mesi tra una cosa e un'altra, sia vabbè, il suo ritorno a New York dopo, la riabilitazione, il fatto che sia dovuto tornare non a casa sua inizialmente ma in una casa prestata da un amico perché avevano paura e avevano paura di ulteriori attacchi, certo. Ma soprattutto erano assediati dai giornalisti e dai paparazzi e volevano evitare appunto tutto questo clamore. Ulteriore stress. Però detto così sembrerebbe una cosa abbastanza noiosa, no? Fin dei conti uno che ti racconta ero all'ospedale. Invece è un libro molto piacevole da leggere perché naturalmente lui, come hai detto tu, un grande scrittore, quindi queste vicende le intreccia con altre osservazioni che vanno da infatti si chiama Meditazioni dopo un tentato assassinio, da considerazioni sulla religione, sul fatto, lui parte da questa cosa, cioè tutti mi dicono che ha del miracoloso, che io sono stato un miracolato. E io stesso penso che, siccome lui parla sempre nei suoi romanzi di situazioni surreali, di situazioni magiche, fantastiche, eccetera, lui dice: io stesso penso che per la finzione ha inghiottito i fatti. In fin dei conti mi sento il protagonista di un mio romanzo. Cioè, però tutto questo non vuole dire che adesso, perché ho ricevuto, mi trovo in questa situazione, io sono un ateo e rimango un ateo, dice, non è che adesso divento religioso. Improvvisamente ho l'illuminazione da salvezza. No, perché qualcuno gli ha detto: cavolo, adesso con quello che ti è successo, rivedrai le tue posizioni. E lui dice: no, semplicemente la magia è entrata nella mia realtà. Io ho sempre scritto di queste cose, cioè, il problema è io ai miracoli non ci credo, ma i miei libri ci credono. Dice, e in qualche modo ho come l'impressione che siano stati i miei libri a salvarmi, quello che dicono i miei libri, quello che scrivono i miei libri a salvarmi. E questo è un bel scindere tra l'aspetto artistico e anche il concreto della personalità di un artista, Certo. Come se fossero due entità diverse. Infatti il libro è molto interessante proprio per le sue osservazioni anche sulla sua arte, su quello che sul suo modo di scrivere, diciamo sulla sua poetica. E poi c'è, il libro gioca sempre su due binari, per cui ad esempio fondamentale direi è il rapporto, la dicotomia tra l'odio e l'amore, dove l'odio ovviamente è rappresentato dall'attentatore e da quello che gli ha fatto, attentatore che lui non capisce poi fino in fondo perché si sia comportato a questo modo, perché appunto era al tempo un ragazzo di 24 anni, adesso ne avrà 26, quindi non nemmeno nato quando Rushdie subì la condanna a morte da parte dell'Ayatollah Khomeini per i versi satanici. Lo stesso attentatore ha detto di non aver letto questo libro, di aver letto poche pagine di Rushdie, così sparse, ma di avere visto delle interviste su YouTube. E che da queste interviste lui ha capito che questo era un personaggio che andava eliminato perché era un ateo, un miscredente. Un infedele, una persona che andava eliminata. E fra l'altro questo personaggio, come si sa, ha attentato non in un angolino buio di notte. No, anzi, davanti a una platea. Davanti certo. A una platea, e c'è tutta una serie di queste strane coincidenze. Rushdie doveva parlare a un evento che aveva per tema la sicurezza degli scrittori stranieri in America. Ecco, quindi guarda. Quindi quando è arrivato questo personaggio mascherato, tutto vestito di nero e con una maschera nera, gli si è avventato addosso e ha cominciato a pugnalarlo, finché non hanno visto il sangue per terra, molte persone hanno pensato che anche a una messa in scena. Una messa in scena per dare più risalto all'argomento. E quindi, sì, questo qui erano in una arena, in un vasto sala convegni, c'erano più di 1000 persone. Ora ha agito di fronte a un migliaio di persone, però sta continuando adesso, tutte le volte che deve esprimere la sua posizione, continua a dire di essere innocente. E sì, di aver fatto una cosa per la quale lui era l'eletto di farla. Sì, lui si dichiara, si proclama innocente. Il processo non c'è ancora stato perché aspettavano appunto la pubblicazione di questo libro, perché se no poteva inficiare i risultati se veniva pubblicato dopo il processo. Dicevo, l'attentatore rappresenta l'odio, l'amore è rappresentato dalla moglie di Rushdie, per cui lui ha parole veramente degne del miglior romanzetto sentimentale a volte. No, sono cattiva. Comunque, parole molto, molto affettuose. Considera che è molto ferito nel corpo e nello spavento. No, sono stata cattivissima. Ha parole molto affettuose e che ci spiega che l'ha seguito giorno e notte in ospedale, dormendo su una sedia, gli è stata sempre vicinissima. Purtroppo non era presente quando lui è andato a fare questa conferenza, perché avevano deciso di approfittarne, lei ne approfittava per andare a trovare la sua famiglia, quindi ci racconta tutta l'ansia di questa persona. Questa cosa vissuta a distanza. Di questa cosa che ha cercato subito di mettersi in contatto con lui, e siccome in auto ci volevano 6-7 ore per arrivare dove era Rushdie, alla fine ha cercato un aereo, l'aereo non c'era, insomma alla fine si è pagata un aereo privato. Un volo privato, costo 20.000 dollari. Allora, no, beh, bello perché ci racconta tutti i costi. Allora dice, questo deve essere uno molto attento al denaro, perché ci spiega che naturalmente le cure che ha ricevuto erano molto costose, però sì, tutto quello che riguarda la rimessa in piedi è stato pagato con l'assicurazione della New York University, per cui lui attualmente insegnava. Quindi aveva un'assicurazione, fortunatamente aveva un'assicurazione. Ah, tenuto informato il lettore. Sì, però dice, dopo ci spiega che ha dovuto fare una lunga riabilitazione, perché gli si era anche spostata la mascella alla bocca, quindi non riusciva a parlare, e allora tutta questa riabilitazione di logopedia, più imparare a ritornare a usare la mano, eccetera, tutto questo non era passato dall'assicurazione. E quindi si dice, e lì sono stati altri 18.000 dollari. Ah, però, vedi, attenzione a questi attentati, eh. Appunto. Comunque, oltre che tutte queste particolarità, fra l'altro, mettiamo un po' di musica, perché sì, volevo parlare con te anche di un articolo che ho letto in apertura sulla lettura del Corriere della Sera, che secondo me, non dico che abbia attinenze sulla modalità di scrittura di questo lavoro che stai presentando, però magari potremmo confrontarci su questo a proposito di magazine, no? Di cui hai parlato. Ok, allora, due parole velocissime sulla playlist. Ovviamente ho cercato dei brani che fossero un po' inquietanti, che venissero da film gialli. Il primo è inquietante. Il primo è uno dei brani più inquietanti che conosco, e Red Right Hand, oltretutto il titolo è anche quasi adatto. Attinente. Se fosse Red Left Hand sarebbe perfetto. Diciamo però che è Nick Cave. Certo. Questo. Take a little walk to the edge of town and go across the track where the viaduct looms like a bird of doom as it ships and cracks, where secrets lie in the border fires and the humming wires. Yeah, man, you know you're never coming back. Across the square, across the bridge, past the mills, past the stacks. On a gathering storm comes a tall, handsome man in a dusty black coat with a red right hand. wrap you in his arms, tell you that you've been a good boy. He'll rekindle all the dreams that took you a lifetime to destroy. He'll reach deep into the hole, heal your shrinking soul, but there won't be a single thing that you can do. He's a god, he's a man, he's a ghost, he's a guru. They're whispering his name through this disappearing land, but hidden in his coat is a red right hand. Respect, you feel like an insect. Well, don't you worry, buddy, 'cause here he comes through the ghettos and the barrio and the barry and the slum. His shadow is cast wherever he stands, stacks of green paper in his red right hand. Ne parla sia con articoli simili, però quello che mi ha colpito di più in effetti è preso da tutto libri della stampa, e anche la lettura comunque riporta su questa modalità di narrazione. Sono saggi questi romanzi. Ogni volta che un grande romanziere americano scrive un saggio, il mercato e i lettori rispondono. Dopo anni di autofiction, l'editoria USA si sta sempre più orientando verso il personal essay. Dopodiché c'è un approfondimento veramente molto vasto: editoria, autofiction al tramonto, il grande romanzo americano è un saggio. Poi dopo diversi esempi che ti risparmio, insomma. Troviamo tutto ciò in un'attinenza, non dico con il romanzo che stai presentando, è qualcosa che hai notato anche tu, Silvia? Non in questo libro. Questo libro proprio è quasi per certi aspetti un diario, cioè un diario. Adesso okay. non lui proprio riflette su quello che gli è capitato. Bisognerebbe che sapessi quali sono gli esempi che fanno per dirti. Ok, te ne cito subito qualcuno. Guarda, ad esempio, per un autore, un libro a me è piaciuto tantissimo, su altri un po' meno, La fine della terra, edito in Audi, e Jonathan Franzen. Ecco, questo è un esempio. Franzen tende più a essere un saggista proprio. David Foster Wallace, una cosa divertente che non farò mai più. Sì. Perché abbiamo anche, sul quale abbiamo parlato. Sì, anche, sono tutte ricordo. Cose abbastanza, sì, non recentissime comunque. Almeno quello di Foster Wallace non è recentissimo. Sì. È una cosa diversa questa. Sì, secondo me sì. Certo. È quello che è stato chiamato il romanzo saggio. C'è un critico, un giovane critico italiano che ha dedicato un librone enorme, edito mi sembra da Bompiani adesso, che si chiama Stefano Ercolino, sul romanzo saggio. Che sì, è questa narrazione che poi è più vicina alla saggistica che non al romanzo, praticamente. Ok, e questo ovviamente, ribadiamo, diverge un po' quello che stai presentando, infatti ascoltando anche le tue parole. L'articolo mi è piaciuto tantissimo comunque, quello di Tutto Libri, a proposito di questi percorsi letterari. Allora, così, volevo diffonderlo. No, secondo me sì, però adesso dovrei leggere l'articolo. Certo, e non abbiamo il tempo. E non abbiamo il tempo, no. Perché è veramente molto esteso, però una lettura che consiglio. Poi sai, sono quelle sfumature che ogni tanto tira fuori la critica, per cui c'è stato l'autofiction e l'autofiction vabbè è qualcosa di un po' diverso perché è più chiaro, quel romanzo in cui l'autore entra con delle vicende sue veramente, veramente esistite, diciamo veramente accadute, entra col suo nome e cognome, però ci mette anche della finzione, per cui non si capisce. Va a romanzare la cosa. Sì, per me il grandissimo autore di autofiction è Patrick Modiano. Sì. oppure Paul Auster, il primo Paul Auster. C'è anche il tutto è condito insomma in chiave di romanzo, anche se dentro c'è il signor Paul Auster o il signor Modiano. Mentre qui questo è più vicino al memoir. Il memoir è quella, diciamo così, detto proprio in soldoni, quell'autobiografia che però non tratta tutta la vita di una persona, ma un certo sì, periodo, lasso di tempo. Ecco, lì io non lo so. No, certo, è un'altra, certo, hanno trovato un'altra, certo, etichetta. No, sì, chiaramente sono poi recinti, come hai detto giustamente, che arrivano dalla critica, sì, il più delle volte. Sono le 8:25 minuti, ovviamente la nostra playlist aperta con Nick Cave, un brano inquietante con un titolo anche molto particolare, anche inquietante per l'attinenza, sì, con la presentazione che abbiamo portato. Diamo qualche indicazione logistica intanto. Edito da Mondadori. Ed è... Per Rushdie è Cortino. No, sì, leggo, per Rushdie è Cortino, in effetti. Sono 250 pagine. Ma perché circa ce l'hanno così tanto con Rushdie, voglio dire? Insomma, capisco perché... tutto, però insomma... Perché lui non stava zitto. No, ma anche, lo dice anche lui alla fine... lui è stato bersagliato dai media dopo la fatua, e quindi dice: ci sono in giro una serie di Rushdie cattivi, che sono il Rushdie demoniaco, quello che appare blasfemo. Poi c'è, dopo che è tornato a muoversi liberamente, il Rushdie arrogante, il Rushdie egoista, che dicevano al tempo della fatua: lui pensa solo a se stesso, ha parlato tanto male della Thatcher, adesso guarda, fa spendere un sacco di soldi ai contribuenti per proteggerlo. Poi c'è Rushdie festaiolo, quando è tornato a vivere, che andava a tutte le feste con Rushdie, e poi dice dall'altra parte: adesso è saltato fuori anche il Rushdie buono, che è una vittima della libertà perché di parola. Perché diventa vittima della libertà di parola. E fa: sì, e io mi trovo a non riconoscermi in nessuno di questi. Di questi. E il problema è che io sono Salman, dice, quello che ama sua moglie, i suoi figli e così via. E però tutti questi Rushdie che stanno in giro fanno sì che la gente pensa di conoscermi senza leggere i miei libri, che non, sì, ritiene più importante, giusto, leggere i libri. E aggiungo in conclusione, dalle tue parole anche, hai detto, tratta un aspetto tragico e pauroso, ma nonostante poi è riuscito a sopravvivere Rushdie a questo attacco, ma dalle tue parole sento che c'è anche una dose di, non dico ironia, sì, sì. Ah, okay. È una cosa molto bella che c'è in questo libro, che spesso lui riesce a fare delle autoironia, lui ha un grosso senso dell'umorismo e riesce a fare dell'autoironia e dell'umorismo, dell'ironia anche su in questa circostanza. Sì, ad esempio, è una cosa, lui dice, quando scrisse l'altra autobiografia sua, dove raccontava i fatti della fatua, che si chiamava Joseph Anton, era in terza persona, parlava di sé in terza, okay, persona. Dice: questa volta, dice, questa volta parlo in prima persona, perché quando ti danno 15 coltellate è una cosa molto personale. Cioè, per cui fa, questo è un I book, no? I come io. Come io. E poi dice: beh, veramente, visto quello che mi è successo, è anche un I book, scritto EYE come occhio. Cioè, anche un libro di, perché visto quello che ho perso. E intanto che abbiamo appunto definito determinati aspetti di Coltello Knife, edizioni Mondadori, Salman Rushdie, è a disposizione per voi in libreria intanto, e mi pare proprio un bel libro, però il libro misterioso è a disposizione per voi se, sì, rispondete esattamente al quiz posso dire che puoi presentare. Allora, posso dire che il libro misterioso comunque è uno dei romanzi più belli di Salman Rushdie, quindi voi avete intanto comunque... non cadete male. No, non cadete male, cadete molto in piedi. La domanda per me è molto facile, ma non lo so, vorrei sapere la data del giorno, mese, anno in cui l'India si è resa indipendente dagli inglesi. La data dell'indipendenza dell'India. La data dell'indipendenza dell'India, e quindi ho dato sintesi immediata per le vostre risposte. Il brano che ci porta la pubblicità? È da Ascensore per il patibolo di Miles Davis. A tra poco, buon ascolto. Ah. Jazz noir, o quasi, c'è stata anche l'incursione di Nick Cave in questa bellissima playlist, quasi irriconoscibili se non fosse per la tromba di Lee Morgan e il preciso timing di Art Blakey, la formazione dei Jazz Messenger, con questo titolo che pronuncerò malissimo, The Femme Disparaissante. The Femme Disparaissante, ok. Grazie, no, il mio francese è unicamente perdonabile per il difetto di pronuncia che ho nella R. No, il resto, tu devi sapere che il mio sogno era fare la francesista, quindi. E pensa un po', vedi? Risposta esatta 15 agosto 1947, un podio di partecipanti dove vi è un primo premio, cominciamo dal terzo posto, Marco, le risposte sono tutte e tre esatte, quindi per i due che non hanno avuto la possibilità in senso cronologico di arrivare al 333-180-9494, innanzitutto grazie per aver giocato con il Voltiamo Pagina, aggiungo anche di rimanere all'ascolto perché c'è la presentazione che a breve porterò. Quindi grazie Marco, risposta esatta, grazie Paola, risposta esatta, il vincitore è Lorenzo che si porta a casa il lavoro di Salman Rushdie, il libro misterioso che più tanto misterioso non è, però vi posso assicurare, ho letto anch'io, è molto bello. Sì, è bellissimo, molto bello. Sì. Allora, è un momento per quanto riguarda la letteratura, abbiamo già presentato altri libri con questo tema, io ho tardato una settimana perché ho voluto appunto addentrarmi, dico lo presento o non lo presento, è sempre una questione di rapporto madre-figlio, allora ancora un'altra volta dove le mamme partono ovviamente in condizioni di gravissimo svantaggio, è Antonio Franchini, edizioni Marsiglio, Il fuoco che ti porti dentro, io vi leggo l'incipit di questo libro tanto per rendere l'idea. Benché da molti sia considerata una bella donna, mia madre puzza. Ecco, questa è l'apertura, il lavoro Il fuoco che ti porti dentro di Antonio Franchini che conoscevo ma di cui non ho mai avuto la possibilità o la scelta di leggere qualche romanzo, nasce a Napoli nel 1958, ha esordito nel 92, ha avuto diverse pubblicazioni che hanno riportato discorsi e contenuti interessanti, si confronta in questo caso con una vicenda familiare di cui come tema abbiamo già avuto modo di ascoltare, confrontare e leggere con altre autrici o altri autori, in questo caso di diverso cosa ho trovato? Ho trovato che questa donna incarna la protagonista in maniera molto rappresentativa tutti gli aspetti negativi, nessuno escluso, qualunquismo, razzismo, classismo, egoismo, opportunismo, una falsa e la mezza cultura peggiore dell'ignoranza, il rancore, insomma, per cui il disegno che viene riportato da questa e oltretutto non è molto attenta all'igiene personale. Ah, quando... non era, io pensavo fosse metaforico, puzza. No, ah, invece no. Questo proprio è, fa cattivo odore. Fa cattivo odore, fa cattivo odore sia dal punto di vista dell'animo e non solo. Questa è una gravissima critica in partenza. La forma è quella e quindi anche in questo caso avrete modo, seppur in modalità un po' particolare, di sorridere, perché la formula è quella della commedia, ma il contenuto assolutamente è di una tragedia. È una tragedia che vede frustrazione, è una tragedia che vede un rapporto assolutamente ostile e una ricerca. Ma perché è così questa mamma? Si chiede in continuazione il coprotagonista. Odia persino il nome della madre, si chiama Angela. La guerra, un padre morto troppo presto, una madre morta troppo tardi, perché dietro un mostro, si dice, no? C'è un mostro ancora peggiore, una madre assolutamente dominante, una madre che l'ha portata a sopprimere ogni suo desiderio, ogni sua felicità, ogni suo motivo di giovinezza, un atavico complesso di inferiorità, l'appartenenza alla cultura del meridione e allo stesso tempo una sorta di revenchismo, no? Vorrebbe far valere contro l'odiato nord usurpatore, oppure più semplicemente il fuoco, come porta al titolo interno, che la divora e privo di ogni qualsiasi ragione. Fa un paragone come il cuore nascosto di un vulcano. E Antonio Franchini, sì, ha portato questo libro con diversi episodi, diversi percorsi che partono dalla critica fino ad arrivare alla ricerca e la motivazione di questi comportamenti veramente deprecabili, fino ad arrivare, non dico a una redenzione, ma a qualcosa che è di analisi, che va dalla commedia alla tragedia. Un romanzo memoir anche in questo caso, che è popolato di personaggi che circondano questa vicenda. Un'eroina che viene definita eccessiva e imprevedibile, capace di alternare, come nelle tematiche qua scritte e descritte, quella che è un aspetto drammatico, ossessivo e momenti, come ho anticipato, decisamente comici. Un racconto che mette insieme, sì, la commedia, da Edoardo De Filippo al furore ctonio, viene così definita, l'urgenza di uno sfogo viscerale alle cadenze studiate di una messa in scena, di una vera e propria recita. Antonio Franchini, Il fuoco che ti porti dentro. La prima cosa che ho pensato quando ho chiuso questo è un libro che tranquillamente può essere riportato a teatro. Sarà l'origine partenopea dell'autore, saranno le attinenze che ci sono in diverse modalità di critica e allo stesso tempo di individuare in una persona repressa il perché tanto odio e perché tanta voglia di revenchismo, di rifarsi, l'odiato settentrione usurpatore, anche perdersi in un passato assolutamente, in questo caso, vissuto in maniera difficile, una madre che è la nonna appunto del narratore, che ha avuto motivi molto forti di reprimere i percorsi di questa donna, e una copertina che vede una bellissima ragazza, pare emancipata, sta fumando una sigaretta, è sorridente, sta passeggiando libera e felice, ma in realtà con un fuoco che ti porti dentro, che è descritto in questo lavoro di Marsiglio, Edizioni Marsiglio, di Antonio Franchini. Procediamo nella playlist, rientro e vi porto il quiz per quanto riguarda questa pubblicazione che mi è stata consigliata da Ubik, e in questo caso abbiamo Bob Dylan. Sì, perché è una canzone che viene citata un paio di volte nel libro di Rushdie, sì, e che lui ama particolarmente, e che dedica alla sua moglie, per inciso è la quinta. Ah, beh, si vede che sei innamorato alla fine. Cioè, sì, sì, ma ne parla in maniera veramente... Non ha mai trovato quella giusta. Non ha mai parlato così delle altre. E, appunto, vedi? Anzi, di due ne ha parlato veramente male dopo il divorzio. Ha divorziato proprio tu, male. Tu, tra l'altro, con due. Sei una grande ammiratrice di Salman Rushdie, da quel che... Sì, ti piace molto. Mi piace. Diciamo che ha accompagnato tutta la mia carriera. Cioè, è vero. Ho passato giusto più di 35 anni a studiare la L'hai sua conosciuto? Opera. Sì, l'ho conosciuto nell'88, lo incontrai proprio quando cominciava ad avere le prime minacce dei versi satanici. Versi satanici. E quello fu un incontro molto, molto interessante, soprattutto alla distanza. Ho capito tante cose che mi aveva detto, perché non sapevo quello che sta per bene, quello che stava succedendo, non lo sapeva nessuno. E poi l'ho rivisto un'altra volta a Roma, nel pieno della fattua venne a presentare il libro L'ultimo sospiro del Moro, e lì è una roba che ci vorrebbe una trasmissione per raccontarlo, perché fu fatto tutto in gran segreto. Lui era protetto dai servizi segreti, e ci presero tutti quelli, gli invitati, i giornalisti, i critici che erano stati invitati, ci misero in un camioncino blindato e tutto con i vetri oscurati. Tu eri molto a tuo agio, immagino. Sì, ma e ci hanno portato in un posto che io ancora adesso non so dov'era, nei sotterranei del quale a un certo punto è apparso Rushdie, e poi come è apparso, è scomparso. Guarda, ci hanno tutti fotografato, messo, identificato. Vabbè, lasciamo stare. Quella, veramente una scena, una roba da film di James Bond. E l'ultima volta l'ho visto a Milano, che l'ho intervistata a Milano nel 2005, mi sembra, quando è uscito Shalimar the Clown, e lì mi sono molto divertita perché aveva parecchio tempo a disposizione, abbiamo chiacchierato più di mezz'ora, e tra l'altro lui è un grande conversatore. E allora, dopo queste testimonianze a proposito di memoir per quanto riguarda Salman Rushdie, prima di lanciare il brano, a questo punto lancio anche il quiz per avere Il fuoco che ti porti dentro di Antonio Franchini, edizione Marsilio, per la collana Romanzi. Allora, vi dico un nome: Roxy Rocker. È divenuta famosa per il suo ruolo come coprotagonista all'interno di una sitcom, ma che ha avuto un successo mondiale, una sitcom dove il protagonista chiamava questa Roxy Rocker, questo almeno è il nome, in quanto originaria delle Bahamas e sposata con un bianco, lei di colore, li chiamava la coppia zebra. Ecco, a questo punto voglio sapere due cose: si parla di mamma, lei di quale rock star è la madre, e qual è la sitcom che vi ho appena a brevi tratto, insomma, così presentato. Il brano che mettiamo è un vinile, Bob Dylan. Sì, Love Minus Zero, No Limit. Anche questo titolo. My love, she speaks like silence, without ideals of violence. She doesn't have to say she's faithful, yet she's true like ice, like fire. People carry roses and make promises by the hours. My love, she laughs like the flowers. Valentines can't buy her. In the dime stores and bus stations, people talk of situations, read books, repeat quotations, draw conclusions on the wall. Some speak of the future, my love, she speaks softly. She knows there's no success like failure, and that failure's no success at all. Roxy Rocker, divenuta famosa per il suo ruolo come Ellen Willis nella sitcom I Jefferson, e è la madre di Lenny Kravitz. E la risposta esatta arriva da Paola. Grazie, avrai già modo da adesso per ritirare il tuo premio nella presentazione odierna. Antonio Franchini, Il fuoco che ti porti dentro, edizioni Marsilio, collana I Romanzi. Abbiamo presentazioni, abbiamo appuntamenti, ne abbiamo avuti questa settimana. No, questa settimana ci riposiamo. No, ci riposiamo un attimo, anzi vi auguriamo un buonissimo 25 aprile. Vi aspettiamo domani al Pratello per tutta la giornata. Come di consueto ci sarà. E se piove? La presenza, ma speri, non pensa, cioè, insomma, io tra l'altro sono addetto alla vendita delle shirt e dei gadget di Radio Città Fujiko, per cui ho un aspetto commerciale importante, non è che le belle magliette niente, possono avere solo i figli dei ricchi. Vogliamo portare un fashion di Radio Città Fujiko per tutte e per tutti. A maggior ragione vi aspetto, oltre che queste facezie, per l'importanza di un 25 aprile da vivere assieme. E Radio Città Fujiko c'è. Noi ci risentiamo venerdì. Grazie per l'attenzione, grazie a te Silvia, grazie per questo voltiamo pagina. Tra poco avremo Liberi Dentro, poi la rassegna stampa e il Rock Live di Nevio ci accompagnerà alle 12.30. Buon 25 aprile a tutte, a tutti, ci sentiamo venerdì mattina a colazione. Ciao Silvia, ciao, buona giornata. Ciao a tutti. Ciao. Ciao.